mundo que non sa la parola amore, libertà. Sarà difficile perché questa nostra età è prigioniera. Gente che non sa perché questa vita più non dà un sorso di serenità per l'eternità, la libertà, la libertà. Forse ci sarà. Non ti abbandoneranno se c'è forza dentro te, se lo vorrai, tu vincerai. Sempre. Yeah.